bello quando il mondo attorno a te si muove, si allontana, si avvicina. Accosti l'orecchio alla pancia, respira. Quando il tonno attorno a te si muove, si allontana, si avvicina. Accosti l'orecchio alla pancia, respira, respira, respira. Respira, respira. Quando il mondo attorno a te si muove, si allontana, si avvicina. Thank you. se questa pioggia lavasse davvero tutti i peccati e questa Roma tornasse a farsi dorata, io potrei allontanarmi dai miei cadaveri alla ricerca della mia anima dannata. Se questa donna fosse stata una persona pura, io non dovrei avere motivi per dubitare. Ma perché Dio mio mi metti addosso questa paura? Perché non mi lasci la libertà di amare? Vorrei mangiare questa città in un sol boccone e cantare come digestivo un'ultima canzone, perché se proprio non posso evitare di farmi inghiottire, non ho voglia di essere il solo a lasciarsi finire. Se questo dolore che mi consuma non si può fermare, cantando questa canzone ti voglio contagiare. Questo dolore non è solo mio, ma anche a te appartiene. È sangue caldo che sgorga dal taglio delle sue vene. Seppure chiudo gli occhi, per mai più guardare, sempre un'anima che sa e che palpebre non ha. Seppure scappo via, lontano per dimenticare, c'è sempre un'anima che sa e che non mi abbandonerà. Da quel taglio nero sul collo vedo l'avvenire di una violenza cieca e brutale che non ha mai fine. Avrei voglia di tappare quel buco mettendoci un dito, ma troppa paura per compiere un gesto tanto proibito. Occhi sbarrati e bianchi che fissano instancabili il vuoto, collegano a questo mondo quello dell'ignoto. E quell'espressione ghiacciata e dipinta sul suo pallido viso non rassicura su ciò che deve essere il paradiso. Non rassicura su ciò che deve essere il paradiso. Ah, ah. Seppure mi copro gli occhi, per mai più guardare, c'è sempre un'anima che sa e che palpebre non ha. Seppure scappo via, lontano per dimenticare, c'è sempre un'anima che sa e che non mi abbandonerà. C'è sempre un'anima che sa e che palpebre non ha.

c'è solo luce dopo il buio. Io calami quel di cui ho bisogno, mi ripeto che c'è tutto al mondo, che tu sei morto e poi sei sorto. C'è solo luce dopo il buio, c'è solo luce dopo il buio, c'è solo luce dopo il buio. Ricordo più, non me la ricordo più. Pa, pa, pa, pa, pa. Dall'ultima volta che t'ho incontrato, quell'aria sconvolta degli ultimi giorni, parole bassi, non ne vale la pena così. L'ho appena fatta, Fabio, l'ho appena fatta, nella versione che conosci tu. Te la rifaccio.

che non mi abbandonerà, e che non mi abbandonerà, e che non mi abbandonerà. Yeah. Ah, classiconi, classiconi. Ah no, voglio fare questa che è brutta, ma mi diverto a suonarla. Mi proiettano nel futuro, finestre mendaci di ansietà, dove nascondermi per stare al sicuro. La realtà è da un po' che mi bracca, prima o poi mi prenderà, farà del mio capo un altro trofeo da mostrare con vanità. Passati, ti ricordi, ridevo della gente attorno a noi. Li accusavamo di avere paura, di non provare a vivere mai. Troppo attaccati alla vita e alle cose, troppo insicuri anche solo a pensare che oltre quello spessore c'è un mondo migliore, quantomeno da esplorare. Adesso però che mi guardo allo specchio, quel tizio che osservo non sono io. Scherzo pessimo del tempo che passa, e che razza di logorio. E mi passa la voglia anche di parlare, sparito il coraggio, non si riesce a trovare. Sto suonando davvero un'altra canzone che mi convinca a ricominciare, ma chi cazzo me lo fa fare? Va complicato inventare dei versi, già con la musica non ci so tanto fare. Figuriamoci se mi viene una morale ottimista per fare contento l'amico buonista. Sono anni difficili, non facciamo che dirlo. L'evoluzione ha fatto un bel salto, non so se è previsto che io la scampi, però vorrei estinguermi almeno provando. Complessi, convessi, ribaltano e smentiscono ogni osservazione. E punti di vista, storie di vita, tutto è rimesso in discussione. Diventata la mia nuova ossessione, vagare per caso, tenermi nascosto per guardarmi in onto, guardare i confini e tracciare una mappa del posto. E mi viene voglia d'agosto. buttarmi nel mare, nuotare lontano. E se la realtà mi vuole pigliare, un po' di fatica gliela voglio far fare. Se proprio mi vuole, mi deve pigliare. Se proprio mi vuole, mi deve sudare. Darmi la caccia ai quattro angoli del mondo è la cosa migliore che io possa tentare. È l'ultima cosa, l'ultima cosa che mi resta da fare. Fabiuz. Evviva, grande! Me la sono sentita in macchina e me la sono cantata. In macchina? Dove stai andando? Ma che cazzo ci fai in macchina? Ma tu hai una macchina? Ah, perché sei lì, giochi in casa. Ma perché non me la ricordo più questa? Pom pom. Quell'aria sconvolta degli ultimi giorni, parole pesanti senza badare presenti. Avevo paura a guardarti negli occhi, le palpebre aperte senza avere mai dubbi. Pensavo che avrei voluto abbracciarti ed allora non ho mai smesso di pensarci. Non ha una tiepida idea, un fuoco nascosto tra le ceneri, un seme fecondo di orchidee. Bruciavano i ponti, non badavano a nessuno, le mani alla ricerca di appigli inesistenti, quel sorriso timido, quei modi insistenti. Volevo riportarti alle cose normali, cercavo le parole, mi sembravano banali, come quella giornata trascorsa con lei, quelle sabbra che non mi stancano mai. Non hai abbassato il capo mai. idea. Nessuno mi sta ancora citofonando, quindi... Boh, vabbè, poi se arrivano i vigili ce ne accorgeremmo. Voilà, proviamo questa che è nuova, non mi ricordo più nulla. Perché non sono da 20 anni. Dove sono le cose qua? Sparite, sparite le cose. Punti creativi, canzoni, canzoni qua, testi per... Canzoni. Ah sì, che bello. Che bella la vita. Allora. Ah. Ripercorro ossessivamente le tracce per capire dove ho sbagliato, ma dove ho sbagliato. Risuono sempre gli stessi accordi, come ninfe sempre uguali e differenti, vogliono dire qualcosa, ma cosa? Vita nuova, la musica è un momento surreale. Nella mia vita nuova, la musica è un momento surreale. Uno spazio dove tutto è possibile e dove non accade niente, mai niente. Ascolto il silenzio in attesa di un messaggio, e il silenzio mi sussurra sottovoce: non ancora, non ancora. Lo sguardo Troppo triste. Tutte queste cover che non hanno senso, non le so fare. Fatemi volare, non inventate. Dai, proviamola. Fatemi volare, non inventate altre crisi internazionali per tenere chiusi gli aeroporti. Ho bisogno dello spazio aereo per meglio pattugliare. La bellezza a cui devo aggrapparmi, una dolce illusione per accompagnarmi alla fine dei miei giorni. Fatemi sperare che non inventerete altri atti di terrorismo per diffondere sentimenti di timore. Ho bisogno di frontiere aperte per sfogare le energie e smettere di organizzare fughe attraverso oceani e terre desolate, le uniche che mi lasciano percorrere e combattere ogni giorno ogni sorta di temperie e i morsi della sete e della fame. Fatemi pregare, c'è un Dio lassù che attende mie notizie. Sono giorni che non mi faccio sentire, non ho voglia che trascorra le sue notti in apprensione, in attesa che mi faccia vivo. Lo so io che il suo sonno spesso è turbato e nei sogni emerge la sua preoccupazione per quei figli ormai grandi che l'hanno abbandonato e che lui non voleva far partire. Fatemi cantare, tanto più che in questo angolo di mondo non c'è orecchio disposto ad ascoltare, e questi quattro accordi di scarsissimo valore di sicuro sono già stati usati per scrivere una canzone che parlasse d'amore per quella donna che rifiuta i miei sguardi Di che cosa abbia paura non mi è dato di capire. So che è un'emozione che coinvolge tutti quanti. E ci svegliamo ogni giorno con le palle già girate e andiamo a dormire che siamo esausti. E il sollievo che ci serve per addolcire le fatiche è quell'amore che non riusciamo a darci. Yeah. Oddio. Boh, potrei anche staccare. Cosa manca? Madonna. Ultima, dai. Ti ho dato un nome, una ragione. Non smettere di credere al futuro. La notte buia, la notte oscura. Questa è la terra che ti lascio in dono. Ti ho dato un viso, stampaci un sorriso. Da trasmettere anche a quelli dopo di te. I giorni vuoti di neve e fame. Non ti potranno fermare se tu non vuoi. Non cercare la verità, tu non la troverai. Ciò che vuoi è ciò che avrai. Altro non ti servirà, questo è il figlio che ti do, tu lo alleverai, questo è il senso oppure no, non lo saprai. Ti ho dato mani, strumenti con cui scavare, costruire, persino ammazzare. Ti ho dato un pensiero, ti potrà aiutare quando la notte un giorno arriverà. Cercare la verità, tu non la troverai. Ciò che vuoi è ciò che avrai. Altro non ti servirà. Questo è il figlio che ti do, tu lo allenerai. Questo è il senso oppure no. Thank you.